che ti sento bene, cazzo. Anche la radio è buona, il segnale quant'è? 9.40 radio 5. Guarda un po' che stacco, sto provando quella roba là, quella tua. Prova! Così è attaccato un po', guarda. E così è staccato. C'è differenza? Da 9.30 a 9.40. Ottimo, va bene, KK. E allora, rientrato? Sì, K, mi sto preparando a farmi la doccia. A darti una rinfrescata per il combattimento. La radio rimane sempre buona, Anto? K, io non trovo nessuna differenza. È importante quello, dai. No, ma la K non c'è una differenza, io. Va bene, l'importante è che non si mangi la radio. Niente, dai, sto andando col Midland e quella farina là. Va bene. Ehi, se non andava, pazienza, voglio che ti voti. L'importante è che aumenti qualche wattino in più, dai, perché queste c'hanno 3 watt da radio. Sì, diamo già guardia. Gappa. Gappa, dai. Provo a sentire da Franco, mi arriva 9.40 qua. Sì, arrivi 9.39, figurati. La voglia. Io gli arrivo 9.40, gli arrivo. Beh, siete vicini, capito. Già va bene, sono contento, vai. Almeno c'è l'antenna a posto, Franco. Gappa. Ok, vai, io vado a farmi la doccia, vai. Cioè, ci sentiamo dopo, o stanotte. Ehi, Anto, grazie del controllo, dai, già sono qua, c'è la radio. Ciao. Via, ciao. tre prova. No, probabilmente tre non sono collegati, oppure uno è collegato a un altro insieme. Prova a aprirlo, scusa, se finisce a 4. Vabbè, dai. Adesso vediamo, dai, adesso non aggiungiamo, perché mi sto rilassando un po'. Comunque è vero, questo che è la statica, questo usato. Sì, ho voglia. È un bel microfono, ma sai cosa c'è? L'unica cosa che c'è è che ha il tasto quadrato, ti c'entra dentro al dito, a furia di premere. Cosa già? Che ha il pulsante del PTT, che è quadrato, non è di quelli lunghi come sono di solito, e ti entra dentro al dito, a furia di premere. Mi sa che non ne ho mai avuto di quelli. Quadrato, è quadrato. Vabbè, comunque adesso lo compro da Fusaro il cavo, e vedo un po' se si può fare, perché Parte il cassette, è una cosa allucinante, poi c'ha quelli spinotti, ce li ho presenti, che si usano anche nei circuiti, eccetera, eccetera, e quelli spinotti rettangolari, e c'ha tutti i fili, fila attaccati, capito? Non so se i pirini, quelli spinotti lì, si possa saldare sui pirini. Sì, si possono saldare, però ripeto, se finisce a 4, gli altri 3 vuol dire che non sono collegati o che massimo uno è collegato agli altri. Già. Non lo so, non ci ho fatto caso come finì, ma io penso che entrino tutti, che entrino tutti. E poi ne prende 4, si riduce a 4, non capisco, anche io non capisco, magari c'è qualche filo che va da un'altra parte, che ne so. E per esempio anche le semivinti, per dire, le MB più 4, anche la radio ha 8 poli, però i fili sono 4 sempre, quelli delle MB più 5, capito? E adesso magari domani vado a Fusare e lo prendo, perché ce l'ha per il cavo, non voglio che poi magari se lo venda. E dico anche morbido, quello lungo è morbido. Ma tu stai facendo il microfono da palmo, il di 104, quello lì? No, è quello da palmo. Da palmo. Quello da palmo, che ha detto da palmo. No, ho detto da palmo, il di 104, che c'ha il PTT, è un quadratino praticamente, quello lì è, che c'ha la griglia davanti. Esatto, la griglia cromata. Il di 104. Già va bene il microfono, spara. Costa una settantina di euro nuovo. No, diminuito. 68 euro e qualcosa costa. È un peccato perché è nuovo, capito? L'unica cosa che c'è questo problema qua, che si stanno tutti rompendo questi cavi che facevano. Quindi che rimangono più opacchi. Sì, comunque fai come ti ho detto io, apri il microfono e vedi un po' dei sette, probabilmente gli altri vanno al circuito, capito? E poi 4 vanno al, perché sono trasmissione, ricezione e appunto microfono. Capito. Boh, adesso lo vedo, dai, lo apro, lo vedo, perché è un peccato, è bellissimo come microfono, molto bello, particolare. E infatti, lo apri e vedi un po', e ci metti la spinetta nuova, quella a 5, ci puoi mettere, però devi guardare bene al circuito quali sono attaccati e quelli che vanno al costo, poi, all'apparato. Ma quelle spinette le vendono le fine attaccate? Le spinette, credo di sì, manco io ne ho di quelle lì, già ti ho capito quale stai dicendo, quelle sottili. Sì, rettangolari, che praticamente si filano i pirini che ci sono nel circuito. Esatto, sì, un po' delicate sono, perché sono vicini poi i piedini, bisogna stare anche attenti a non piegare. E se no mi basta tagliare da lì e fare le aggiungure da lì e lasciare il capo. Io metto un po' di carbone stringente. Sì, ma li puoi anche saldare se non trovi la spinetta, capito? Sì, che sono ben vicini, forse ci vuole il carbone stringente, dopo che li saldi messo sopra e scaldato. Ce n'è anche un altro di Attatti, il modello 1104C da tavolo, bellino anche, si assomiglia un po' al Turner. Già l'ho visto, sì. Rimane un po' più squadrato la parte di davanti dove si parla. Sì, bellino. Ce n'è uno su subito.it anche, vediamo un po', 100 euro ne vuole. E è nuovo Gattobus, costa di meno nuovo, che pare. Mi devono dare un coso da vendere, un Super Sideric, però questa qua a meno di 110, 120 non ne vuole. Mi ho detto, io provo a mettertelo in vendita. Super Sideric, che vedo. Quella con la base cromata sopra, quello lì. Ma la capsula com'è? Buona o ciambata? Ma ha detto che è tutto originale, che lui non ha mai toccato niente. con una porta lo provo e vediamo subito. Ciao Felipe. Ciao Marco. Quindi presumo che a Gianni non gli sia arrivato quello del vecchio interrogativo già. Ciao Marco, no, non mi è arrivato mai, non mi è mai arrivato. Eravamo già un giorno di là, eravamo fatti in Nisi, zitto da tutti. Oh, gli hanno fatto qualche troppo stalino lì e l'ha venduto lì sul posto, oppure non so cosa sia successo, perché parlava malapena, mi ha dovuto passare la moglie, era un bel anziano. Mi ha dovuto passare la moglie, era la mezzo di mammito. Abbassa appena già. Ah, l'ecco già, appena appena magari. Sì, ma poveraccio, se ne sarà dimenticato già, se faceva lui la spedizione se ne sarà dimenticato, dai. Comunque l'importante è che tu non abbia pagato niente all'anticipo, ma solo al ricevimento. Ciao anche a Claudio, mi sono tornato adesso in farmacia, da Cobbeck a comprare due fesserie. Mi sento abbastanza stanco, quindi più che altro vi saluto e rimango all'ascolto, ok? Dai, riprendi Claudio. Dai, solo per un saluto, ci sentiamo più tardi. Quando ti arriva Luca, quando te lo dà, lo apri, apri la capsula è rotonda, grande, c'è scritto Turner. Se non c'è scritto Turner vuol dire che non è la sua originale, perché nel mio c'è scritto Turner. Io ne ho due, uno però non è mio, c'è scritto Turner però in tutte e due, quindi sono originali. Buonasera a tutti comunque. Ciao Cla, guarda come se va bene adesso, che sicuramente spolveranno la toccata. No, devi abbassare i Mickey Gage, mi si ammattendi, è troppo alto di modulazione, non è l'ecco, no? È troppo amplificata. Così bene va? Eia, così sì, se no rimbomba troppo amplificata. Vabbè. Questo qui è la Static, che è un bel microfono. Io già l'ho avuto, io ne ho avuto due o tre di qui. La stessa sagoma del diavolo rosso, solo che è nero, con la griglia cromata. Eia, è bello però, è particolare. E un po' male viene a schiacciare più di già l'ho avuto. Me lo ricordo perfettamente. C'è anche Marco, comunque buonasera, dai. Oh, abbiamo fatto insieme. Ho detto, è che c'ha quel tasto così duro, mamma mia, ne potevano fare diverso, proprio un po'. Perciò non mi è piaciuto mai con Mike. Poi me la faceva fina, non va, vabbè. Ok, ciao, vedi bene, a dopo, se sono vivo. Sì, a Marco, ti entra nel dito. Lo sai che cos'era quell'alternata ieri con questa radio, Gianni? Quel microfono, quello MBP5 famoso che mi avevi fatto avere. L'ho comprato nuovo, questo è quello nuovo. Però invece di MBP5 ho preso l'MBP4, che funziona bene. Quello P5 adesso devo controllare a vedere cosa cazzo c'ha. Se non l'ha mai fatto, lo usavi sempre, non l'ha mai fatto. No, inizialmente già lo faceva, poi ho riuscito a metterlo a posto, pulito tutto con la trenina, tutto messo in ordine, e invece ho iniziato a rifarlo. Mi sembrava strano che era la radio, questa funziona molto bene, questo è il Midland. Però era alternata proprio perché si sentiva ronzare. Sì, alternata, poi ieri mi sono messo, ieri notte, piano piano, cercando di capire, spostando, facendo. Alla fine ho detto, ma esci e cambio microfono, ho messo l'MB4 dell'Inuit, a posto. Poi ho rimesso quello lì e me l'ha confermato sia Gianfranco che Luca, ieri notte verso le 10:30. Allora l'ho preso, ho messo nella armadio, stamattina sono andato a Fusaro e l'ho comprato nuovo. E quindi adesso quanti ne hai? A che livello sei di microfoni? E vabbè, uno l'ho venduto, l'altro uno, adesso vediamo se serve a qualcuno. No, ce li ho tutti nuovi già, non li voglio più modificati. Ne ho comprato 4 da Fusaro nuovi, senza neanche toccarli, come vedi la modulazione è buona, non c'è bisogno di fare nessuna modifica, escono bene e li sto mettendo tutti nuovi, quelli modificati li ho messi tutti da parte. Cappa. E che poi creano problemi, capito? Punti, ponticelli, capsule, vanno bene così, intanto sono baracchini, così a me ne affutta 6. Sono 2 più 4 e 2 più 5 nuovi. E poi ne ho quello che ho preso a Gigi Vulcano, che è quello. quello è sempre andato bene e va bene, quello è modificato, e poi altro treno, l'SBE, insomma già ne ho microfoni da già, va bene. Stanno mandando uno di SBE, l'ho visto, è carino pure, nuovo. Se vede il mio è da vetrina, nuovo, nuovo, nuovo, se vuoi ti mando la foto. Poi c'ho due Turner, di cui uno non è il mio però, ma rimane qua sino a quando non me lo chiederà che le serve. E poi l'SBE, poi cosa c'ho? Ah, quello delle gain in Persipson, che si assomiglia all'Espander 500. Eia, e quello lì è grosso allora, è molto grande l'Espander. Ehi, ma non è lì, ma è bello, è tutto cromato questo che c'ho io, non è mai l'Espander in plastica. Avanti, Marco Condor. Anche che si allontanava, mi ha sotto la mano quello lì, mi sento bello. No, fammelo sentire come esce l'Espander. No, c'è l'attacco diverso, non c'è un attacco particolare, non lo posso usare, capito? Me l'ho promesso di fare l'attacco a 4, ma no, non glielo faccio, è un bel ragione, no, non mi interessa metterlo qua. Quindi lo tieni come vetrina? Sì, le SBE, le gain, quello lì li tengo in vetrina, sono dentro l'armadio, io sì, dentro l'armadio. Io sì, ho anche le BC50, sempre da vetrina, perché intanto non lo uso. Già ne ho un microfono, e ho preso poi anche un altro linealetto, un B300P, e lo sto usando con questi baracchini. L'altro B300P lo sto usando con l'altro baracchino. E adesso sto facendo, ogni baracchino c'è il suo lineare. Andiamo, va bene, l'Espander, fammi sapere se lo stai vendendo, magari questo faccio un pensierino io. No, no, già non li vendo, perché voglio fare anche la collezione dei microfoni di nuovo come avevo prima. Ne avevo 26 prima di microfoni, Turner, SBE, un bel ne avevo, un bel. Poi avevo dato un collezionista di Milano quando era andato in fiera e mi aveva, in cambio mi aveva dato una KF. Ok, un attimino solo. Ehi, gatta, la parroggio, sono saldando. Esatto. Gianni, non c'era Gianni, boh. Ehi, guarda che ti ho mandato un messaggio. Ehi, aspetta che sto saldando un filo. Claudio, io spesso faccio qualcosa. Com'è questa radio col più 4, va bene? È un po' cupa rimasto. Un po' cupa. Io mi ho messo le cuffie, non le cuffie. Cosa stai usando? Che radio stai usando? Il Cobra. Se metti al gas vedi che non è cuffa. Come la dà cuffa? Vabbè. Comunque, Lucrezio. Fai la prova, cambia. Sembra che stia facendo fesserie. Prova già il gas e invece cuffa. C'è una differenza dal Cobra al gas, allucinante. Ho già fatto le prove. No, magari è quello, sì. Vabbè, ogni radio ha la sua ricezione, il Galaxy c'ha la ricezione fenomenale, sembra stereofonico. Per quello già rimane qua. Stamattina mi ho verniciato le maniglie, ho fatto una roba, ho verniciato le maniglie che erano graffiate, le avevo già preparate, le ho riattaccate, le avevo tolte. E vabbè. Quelle fesserie si fanno perché quello lì spostandolo, facendolo magari, lo colpiscono, ma quello lì era stato fatto per avere, per metterlo in casso proprio, tipo un caraccio, così, che l'incasso, un mobile è messo in casso così, e poi ho avvitato la vanta sulle manine. È bello così, quello già va bene. Già sa, già fa la sua bella figura quella farà. Ne ho proposto un altro però diverso, il Petrucci. Claudio, ne stiamo facendo uno che è una favola di Galaxy, ne stiamo facendo uno che c'è molto, ma è bello, una favola, sono andato a vederlo, è allucinante, ma grande così. È uguale come grandezza al Galaxy, però è tutto colorato, sembra una radio HF, c'ha le maniglione, tutto quanto, la grandezza è quella, e c'è anche un monitor, adesso non so per che cosa serva, se sia analizzato di specchio, qualche cosa del genere. Se non ho mai visto un radio HF colorato, è già buco. colorato il monitor mio. Ah, c'è il monitor a colori. Ehi, vabbè, se fece riesce. Non è il monitor che fa la radio, no? È la radio che fa il monitor. E fesseria che però all'occhio le cose belle piacciono, perlomeno a me è così, io non lo so come senti, però a me mi piace che esca bene e che sia anche bella la radio, perché ci sono tante radio vintage che a me non piacciono più, ce ne sono alcune che a me piacciono, non sono tante, però ci sono quelle che mi piacciono, tipo il Royce che lo stanno vendendo 250 euro. Io voglio la pedifella, io faccio la pedifella. Io ti mando il prototipo del Royce, ed è uguale, non è marca Royce, è un'altra marca, è Courier, ma sono gemelli, precisi identici, questi ha due strumenti e quello là è a tre, preciso identico, stessi lati in legno, cassa in ferro, tutte le stesse cromature, tutti gli stessi pulsanti, tutti gli stessi pomelli, eppure non costa 250 euro. Ognuno vende come vuole, capito? Però se andiamo a dare il valore effettivo della radio vita c'è molto molto inferiore. Io vabbè, ti sto dicendo quello che ho visto, non è che si valga quello, anche se il Royce è la Ferrari degli apparati vintage, bisogna dirlo perché è bellissimo. Vabbè, ma non c'è solo il Royce, no? C'è anche l'altro modello che praticamente uno è la Royce e l'altro è Jaguar. Jaguar, c'è una radio che si chiama Jaguar, della Jaguar, col marchio della Jaguar. Ciao Lu. Oh Lu, avvisese. Oh oh oh. Non so come cazzo metterlo questo microfono, ce l'ho a 4, ora, ma sta spingendo, sì. Sì, che va bene, si sente bene. Sì, ce l'ho a 4. Luca. Già, ti ho risposto al messaggio. Mi hai risposto? Sì. Sì, Club, sto richiamando. No, ti ho rilanciato. Mi sono spostato, un cazzo nato di giù a fare la roba. Lu, piano piano. A gratis pure. Non so che funziona così. A gratis. Sai, posso merenda, va. KK. Così la buonanima è di Bacchisio. E allora della merendero. La buonanima è di Bacchisio? Di zia, è l'ora della merendero. È l'ora della merendero, di zia. Gianni, ci sei? Ha chiuso Gianni, grazie. Non so. No, sono qua Luca. Ciao. Ti stavo dicendo poco fa di quel cavo. Ce l'ha Fusaro da 5 figli, da. Aspetta un attimo, già dopo ti rispondo, riprendi qua. E l'avevo preso anch'io per fare. L'avevo dato a Massimiliano per farsi fare un microfono. E ne avevo preso un metro, mi sembra. A 8 però ce l'aveva, uno l'aveva eliminato. Già, allora, ci sono 5 fili attaccati. 5 fili, adesso ti dico quali sono. Lo spinotto, pronto. Allora, praticamente c'è la carta blu e assieme. Poi c'è nero, rosso e bianco. Capito già. Per gli altri bisogna escluderli. Sono 7 fili, sì, e sono ricco. KKRU, sì, va bene. Ok, no, io prendo il filo, poi vediamo se si può fare. Sì, dai, prendete un attimino che mi faccio. Voglio qualcosa, c'ho fame. Cavagava. E così è. Definitiva. Direttamente, clap. Così è. Ma chi si scende così in basso? Basso come? Di radio? Ho il segnale. Non ho toccato niente io qua. Non ho regolazioni qua. Io non so quando sto arrivando perché. Basso sì. Gianni. Tu vai alternata, vai invece. Ehi. Alternata? Non oggi alternata. Ma io c'è un rumore. Chi c'è? Questa pavidà? Gianni, a basso sto arrivando a te. Tu aspetta che Gianni ce ne va. Prova, va. Però 1, 2, 50, ora un po'. Prova. Oh, come stai scendo bene? Claudio che si è alternata sotto. Claudio, ma la stai usando? No, non stai usando l'MB più 5 adesso. Mi pare che non hai issue. No, spero. Entra fatto a posto. Ma se ne è accorto dallo smitter, ma sta picchiando come sempre. No, lui ti dico poco fa non sono uscito perché questo sta a freme, è un bel duro. A volte lo premi a metà perché è un bel duro. Che microfono è? La static. Ehi, a me è classe, per basso sono. Cava. Alla porta c'era la folletta. Ma c'era la folletta? Ah, folletta rompe le palle, è venuta a farmi alzare da lei. Sa, che ne insulti? No, a venderti se ne aspira a pulvi. Ah, cosa vuoi stare a cambiare? Folletto. Beh, sono buoni, sono. Poi qualche un po' qui di là. Allora, su Amazon ho comprato l'aspirapolvere Roventa in offerta, l'ho pagata 69 euro, tu mi dai, non serve a un cavolo. Questa aspirapolvere fa un po' che non devi tirare i mattoni, devi aprire l'aria, perché se no c'è un affare che fa uscire l'aria nel tubo, no? Se non li apri quella lì, se lasci tutto chiuso, cazzo aspira e non riesci a muoverla nemmeno da quanto aspira. E anche quella di Maria c'ha la folletto. Se la mette a manetta non cammina. La folletta lo sai che cos'è bella? Perché gira l'affare da tutte le parti, non rimane tettaro. Gira da tutte le parti, fa gli angoli e tutto. Beh, non lo so. Manetta ha fatto manetta, che muri waffer che sono. Comunque è buona anche quella che ho io, molto, molto forte. Cazzo di mia cambio, te la faccio proprio ai vini di Veruè. Ci credo sulla parola già. Ci credo sulla parola. Devo rifare una piazza, non la giocare. Io pensavo 69 euro, lo so perché sia, non puoi pretendere, però Roventa mi dava già una certa garanzia, capito? Eh beh, certo. Se funziona, capolungo c'ha capolungo, è leggerissima, rimane piccola, leggera, maneggevole, poi non ha sacchetto, tu va sacche svuoti il contenitore che dove va la polvere, una pulitina con un pennellino e fatto il gioco. Ho capito. Vabbè, se funziona già che va bene, già si può fare. Guarda, va benissimo, l'ho usato anche sabato, va benissimo. Molto, molto bene. Claudio, ci sei? Claudio abusa tutto. Io ti ho chiesto, Luca, ma stai ancora lavorando o c'hai tempo di farmelo con il microfono? Campagna sono già. No, adesso no, sto dicendo, stai lavorando ancora? Appena sono libero ti avviso. Vabbè. Domani devo andare al carrozziere a farmi mettere l'altra vetro della macchina che mi si è fasciato da fare due ore. Cosa? Già ho capito. Mi si è rotto l'altra vetro della macchina, sono andato a sollevare il vetro, però vuoi si è fatto di goccio. Devo andare al carrozziere domani, me lo devo mettere. La macchina quale? È la mia. Quella di guida? Eia. Cazzo, adesso come fai? No, già è chiuso, è bloccato, però va a vuoto, se tu lo scendi devi girare a vuoto, capito? Ah, ho capito, io. Per tu casino, come hai detto, ogni tanto ne è una nuova, andiamo questa macchina. No, le altre cose era all'inizio che gli ho cambiato la batteria perché era difettosa, tutto lì. Quel coso del contachilometri lo stesso, me l'hanno cambiato, per cui. Vabbè. Quello sì. Mi sa che te la faccio questa piazza. Così, fatta come per chiusa. Ne apro una mezza di medica che ce l'ho lì tutta smontata, ma riparto qualche pezzo, è un casino. Aspetta già un attimo. Hai risolto con questa alternata? Ci lascio io non mi sento alternata. Sì, c'è qua, se no te l'avevo detto. Ma c'è anche adesso? Prova, prima adesso sta a parlare. Ehi, c'è un po' di roba accesa, cosa ne so io, sono rotto il coglione. Ste baracchini vecchi, beh. Sì, sì, c'è. Io se c'è rimane, me la fatti tutti. Non è fortissimo, non è fortissimo, ma c'è. Ah, ma ti sei avvisato che questi baracchini vecchi, ma... un Saturnè, con... questi due baracchini erano per miarteni, sono sincero. Poi vabbè, esci da lì. Poi a chi piace, no? Non è che... ma sono alla fine baracchini così, una bellezza, messi lì e boh. Ma quando vai a usarli ti danno sempre problemi. Però se avete di chi? Adesso li prendo, ci rimetto qui dentro l'armadio di nuovo, ma lo più due balle. Uso il Saturnecco e appena arrivo al K uso il K. Mi si picchia nel babicio, un sacco di soldi. Direttamente sì, sono soldi buttati sì. In definitiva è così. Poi a cui piacciono. A me non piacciono, sono sincero. E io vabbè, io ci ho sempre avuto questa mania. E vabbè, a chi piacciono? Vabbè, se mi dai tipo, adesso il, vabbè, 3.900 è bello, quando è tornato 4.500, così, guardate così mi piacciono a me, i veicolari così. No, i veicolari ne ho 4, non mi piace usare i veicolari, ma sono troppo piccoli. Ma fai sentire di nuovo sto cazzo alternata, vabbè. Questi mi guardano, sono i microfoni lui, sono i microfoni, questi, questo è un microfono stesso modificato, uguale, preciso, identico. Claudio, ti posso aiutare, c'ho anche il telefono metto scarico, già regista la Claudia e mandacelo. C'è un capitale microfono GPS. Per carità, per carità. Ecla, casino. Tu perché li hai spesi? Tu dirai, perché dovevo spenderli così? Sì. Adesso che baracchi lo stai usando, Cla? L'Inuit. Quindi lo fa anche con l'Inuit. Se prova a cambiare baracchi non vedere. E magari tipo di apparecchio, che c'è qualcosa. Magari cambiando baracchino non te lo fa più. Prova a vedere. Schiaccia senza parlare. No, no, questo qui non te lo fa. Perché il microfono che ho cambiato, è normale. Questo non lo fa. Che rottura di palle c'è. Un altro microfono ci comparavo, non compare giù venuto. Questo è l'ultimo che è rimasto di quelli modificati. Capito? Con quello lavi bene. Ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Per forza. Perché questo è quello nuovo, già quello non lo faccio. E che te devo dire? Non devo scegliere di comparare. I microfoni nuovi io. Ola. Vabbè, se lo fa non lo mettere più e basta, oppure lo controlli. Sono già messo in mano questi microfoni, per carità. Guarda, se lo fa con questo? Sì, lo fa anche con questo. Lo fa anche con questo? Sì, schiacciato, se non lo copri con la voce, la cosa, sì, schiacciato. Sì, lo fa anche con questo. Cioè, il tuo microfono con tutti i baracchini fa alternata, con tutti. Non ve un cazzo la va. Allora, qui le troviette la vacona, azienda. Dimmela quando lo butti, che mi metto sotto io. E vieni, mettiti adesso, lo sto buttando adesso. Sta attento, non ti prenda a testa. magari. Cercare dai, gas. No, aspetta, lo tolgo, metto l'altro. È sempre quello di ieri, Giafra. Sto cercando di metterlo a posto, ma non c'è niente da fare. Devo vedere cosa hanno combinato. Io farei molto prima a cambiare il tuo amplificatore, buono, se uno dei miei sicuramente andrebbe nuovo. Il problema è la capsula, se è originale. Buonasera a tutti comunque. Ma c'è originale, non vanno da originale. C'è una capsula piccolina, marrone, c'è un ponte fatto all'interno. Guarda, lascia aperto. Ho capito. Domani ne compriamo un altro, va bene. Regalare un po' in giro, danne una Gianni, una Luca, distribuisci tutti quelli difettosi. No, non distribuisco niente di difettoso. Io quando ho cose vedo funzionanti, adesso lo metto da parte e attacco l'altro, lei, bianco per me. Ciao, Gianfra, buonasera. Un attimino che sto saldando. Gianni, ci sei? Eia, ci sono, ci sono. Hola. Hola. Beato che ti sente. Cosa? Beato che ti sente, sei sempre assente. No, questi giorni avevo da fare. Gaffa. Ciao Gianfra, comunque, mi sentite. Avevo da fare in questi giorni, Gianfra. Stavo facendo dei lavori e quindi mi sono assentato per quello. Infatti anch'io, ma anch'io sono trasaldando. Anche adesso. Sto controllando alcune cose, giusto per parlare di sì. Ho fatto un ordine immediatamente, sempre storie di PL, quelli che si sciolgono, PL che si staccano, PL. Ne ho ordinato, mi sono arrivati oggi 10, 1,50 euro l'uno contro i 2,50 euro che ho pagato in un posto molto noto. Sono in bacche liste e sono uno spettacolo, veramente fatti bene, costano 1,50 euro, però sono una canata, hanno preso 10. Quanto ne fanno pagare 1 euro in più? Infatti, 1 euro in più, ne ho preso 2 soli, quando mi ha detto quanto, 2,50 euro, me la sono guardata e ho detto, quanti ne poteva, perché 10, però me ne dia solo 2, giusto per non andarci senza aver comprato niente. Ci rimetti più in carburante andando lì, che è col rischio di metterti anche qualche multa, con 15 euro ma non sono uscito, 15, 16, non ricordo perché, mi ricordo la spedizione economica. Gappa, è una fastidio davvero, qua non si può comparare a nulla. No, è una cosa, guarda, è una cosa che vuole solo vista. Il continente c'è l'imbarazzo della scelta. Qua siamo proprio qua sotto. Se ti fidi, tra poco ti potrei anche chiudere, perché tanto entra la gente. C'è la No, è questo. Buonanotte. Ciao Fra, io ho rifatto gli spezzoni, ho dovuto usare i PL di spezzoni vecchi che avevo perché quelli che ho comprato non abitavano. E alla fine ho dovuto usare quelli che avevano gli spezzoni vecchi, li ho risaldati, puliti bene e ho fatto gli spezzoni con quelli perché non abitano, quindi che ho comprato, ne ho comprato 8 e mi sa che il riporto a 2,51 sono di là. Esattamente, anche a me è capitato. Io ho qua l'accordatore, non l'accordatore, si chiama il commutatore. Lo stavo guardando, ero mezz'ora tentando di avvitare. Ma che cazzo è successo? Si è stilettato il commutatore. Ma il commutatore, cavolo, non fa soldi. C'ha quelli buoni, come attacco femmina. Allora ne ho provato uno di quelli vecchi, anch'io. Immediatamente attaccato. Filettature fatte proprio a mezzo di segugio, guarda, una cosa pazzesca. Poi questa farina in plastica, che appena fa una saldatura si muove tutto. Addirittura nuovo mi è capitato che ho fatto una saldatura veloce. Vado a guardare bene, c'era il coso che ne usciva, no? Il puntale. Cioè, roba, una cosa assurda. Già, scusa un attimo, guarda che ti sto lasciando la portante se c'è alternata. No, se c'è l'evento le volte andate non c'è. Che palle, cazzo. Ma ho staccato questo ponte che hanno fatto di merda, guarda. E che cos'era? Un ponte, quel ponte che fate, che fanno, non lo so, che fanno nel circuito stampato per renderlo più forte, più sono cagate. Adesso l'ho staccato, guarda, il microfono funziona perfettamente. Non l'avevi già staccato, tu mi avevi detto che gli avevi tolto quel ponte. Questo è l'altro, questo è quello che mi hai dato tu, questo è l'altro, mi stavo confondendo, questo è un altro, capito? Questo è un altro. Ma dimmi tu, dico, ma cosa servi? Pur con la mia voce a cosa serve? Sono in cuffia, sembra anche più forte. Infatti è molto forte. Ma te immagini, cioè un cavettino nero su due piedini del circuito del circuito stampato che non capisco a cosa serva. Ci metti il dito sopra e ronza, capito? Cioè ci metti il dito sopra e non ronza più, lo togli e ronza, l'ho disandato, perfetto. Te lo dico io cosa hanno fatto nel polo caldo del microfono, proprio quello che fa l'amplificazione. Sicuramente c'era una resistenza, magari anche collegata a massa, di caduta proprio per evitare i ronzini, che ovviamente rende il microfono leggermente, ma proprio leggermente più basso, giusto anche per non strappare. Questi hanno preso, hanno fatto il botticello e hanno praticamente eliminato la parte di massa probabilmente. Per guadagnare qualcosa, ma hanno fatto un disastro, perché tra l'altro fa anche l'antenna quella, quel sistema. Ma roba da notte, perché io sono sicuro delle radio, quindi non è che se l'ho messo anche sul Galaxy con lo spezzone e con l'adattatore, il Galaxy non è, perché è perfetto, con Tana più 3 funziona bene, quindi da lì me che ne sono accorto ieri sera, è da lì che abbiamo fatto quella prova, ho detto aspetta che cambio il microfono, metto su un'altra radio, se lo fa lì è il microfono, una gagata, un filo saldato sul circuito stampato, non ho capito a cosa serve. Soliti pasticcioni. Pasticcioni a di poco. Poi devi vedere quello che si vede quando ci attacchi gli strumenti, come a certi che mettono il doppio modulatore, proprio il topo dell'incompetenza. A guardare, si escono col doppio modulatore, la radio è fortissima, eccetera, guardi una mezz'altra del spettro e si mettono anche i capelli. Tutto un casino. Lascia perdere, esci che lo richiudo, esci. Io oggi ho comprato altri due microfoni nuovi, gas, spaccare il dai. Te li vendi? Me li rivendo, e io già le tengo di scorta, non c'è problema. Bobo? Cosa già? Ho detto Bobo. Ma guarda, a volte ti fanno impazzire queste cose, non comprendi cos'è. L'elettronica così. Un'altra volta ha tolto tutto, mamma mia, se non mi voglio pensare, va. Fili, filetti, cavetti, oi. Cioè, io ieri sera ci sono arrivato, perché è impossibile questa alternata, da dove arriva? Io non ne ho problemi, c'ho un quadro elettrico, hai capito? C'è un quadro elettrico fatto elettricista con tanto di salvavita, le prese sono tutte attaccate lì. Ho controllato, mi avvicinavo, non sentivo nessun rumore alternato, le radio assolutamente. Nessuno muore alternata, poi chiaramente sono andato in esclusione, ho detto ma non è che è il microfono, infatti c'era Gianfranco, aspetta che provo un altro microfono, ho staccato il più 4 da Linuiti e ho tolto l'MB più 5, mi tiro il microfono, capito? Adesso ho voglia di aprirlo, ieri non li avevo, adesso l'ho aperto e ho visto che c'è questa cagata dentro che non viene bene a dito, adesso l'ho disandata. Sto mettendo bene i fili della saldatura e lo richiudo, cioè è questo mica sto usando già, guarda, perfetto. Adesso va bene. Non bisogna farne, perché poi fanno contatti, fanno magari qualche rientro o qualcosa, non bisogna mettere niente, sì, si può cambiare la capsula per vedere se, ma io ce li ho tutti originali e escono bene, boh, non riesci a comprendere i gaggati che fai. E che te devo dire? Avanti Luca! Però non ho finito! Non è finito ancora? Siamo fra! Sì, sì! Prendi! Addormentati stai! No, ma che sto cercando un compensatore da mille picofara da 50 volt. Questi qua ti mettono i valori e si dimenticano di mettere le tolleranze, poi così lo installo ed esplode. Cosa stai facendo? È una modifica per un apparecchietto in modo che possa operare a banda estesa, tutto lì, cosa abbastanza semplice, niente di particolare, solo che se non c'ho non so che cosa di compensatore, un capo d'officina. Poi io, cavolo quanto sta diventando scuro, ma è un arrivo intemporale, pure in nuovo più. No, dice che praticamente cambiava il tempo in bene, che scaldava sempre di più, ogni giorno di più. Speriamo che sia così. E scappi la scatoletta magica e allora tutto qualcosa. E come mai così affollata la frequenza oggi? No, neanche nei canali, non vedo niente, neanche dei canali vicini, neanche sotto, va adesso. Stamattina c'era qualche di ecco, ma adesso non c'è, non vedo un punto. Sì, stamattina c'è la propagazione dalla Spagna. Sì, infatti, qua non ci manca un po' di scena, c'è una volta del tempo a leggere quello che è pazienza, certo che questo non è un hobby per chi non ha pazienza, diciamo che la ci vuole molta pazienza, io la perdo, se riesco a farla subito la cosa mi va bene, se no perdo la pazienza appunto. Accustiche, mannaggia, qui praticamente chi fa questi lavoretti sono io e Luca, che sta sempre col saldatore in mano. Ce n'è più di uno che sta col saldatore in mano, e magari non lo dice, lo fa lo stesso. Non lo dice perché magari si è bruciato pure. Sì, una delle volte mi sono bruciato io. L'altra volta, cavolo, mi stava calentando, il saldatore sono andato a chiapparlo, mi si è girato e mi ha bruciato la mano. Ma ha seccato la mano. Capita. Ma il fatto è che quando uno poi, quando c'è tanti, forse va bene, aspetta che devo fare una misurazione, qualche faccina. Io a poco qua stavo misurando un'antenna alla 27, messa nella macchina col coso, no, con la parte sulla capotta, no? Diretto, collegato alla carrozzeria, 1,5 e 1,2 di stazionario, messo sulla base magnetica nella stessa posizione, 4,5 di stazionario. Capito quanto è importante mettere le antenne sul coso, diciamo, a massa. Però non in tutti i casi, perché io ce l'ho sulla base magnetica, c'ho 1,1, 1,2 al massimo nei canali alti. Se la regolo mi da 1,1 in tutti i canali, la mia è messa su base magnetica e la misuriamo e te lo faccio vedere. Però nasce anche già preparata quella antenna, capito? Guarda a vedere se c'è un dannata che l'ho chiuso. 1, 2, 3, prova. Cosa? Non ho capito, cazzo, sì, un bel altro sì già. Non parlare, non è che la portata se sa parlare. E appena c'è senso. Io non l'ho sentita, perché c'è il televisore a tutto volume. No, già, ma sicuramente solo il vento è quello. L'ho alternata, già te ne accorgi se c'è. Io sono in cuffia, non sento niente. Sento sì le ventoline di qualcosa. Io sento alternata. Senti di nuovo alternata? Sì, si è acciato senza parlare. Sì, a parte la TV, siete... Aspetta. Sì, non zio, No, quello era l'affare che l'aveva tracciato, che ce l'ha buttato alla finestra. Sembra un vibrato. Basta prendetelo. Con questo tempo non ci penso nemmeno, guarda. Sì, c'è. A tempo di dirci, c'è qualcuno? Certo che c'è gente, buonasera Roberto, ci siamo io, Gianfranco, c'è Claudio, c'è Luca. Ecco cosa sta uscendo tu. Siamo stand by, vai. Ci siamo, là. Ma io con cosa stai uscendo tu? Io. Con la statica, perché male stanno? Per un pelone anche ti riconoscevo, è diversa al solito la voce. Ah, e segnale dov'è? Se no le 9:25. Cappagaccia, va bene. Quasi 9:30 arriva. Anda bene. Fammi sentire senza l'ecco. Senza l'ecco? Senza l'ecco. Ebbè. Lasciami accendere la luce, Robè, sono al buio. Ah, vabbè. Ciao, Robè. Ciao, Robè. Così c'è l'ecco? Sì, un po' c'è. Chiudo, guarda, così va bene. C'è sempre. E allora è questo qua, all'esterno. L'esterno l'ecco, guarda. Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, già c'è abbastanza bene, era un po' amplificata, la sento, molto, come si chiama, non nitidissima, però è buona, dai, è chiara la voce. Guarda, così l'ho abbassato, guarda se va bene. Così è perfetta, va benissimo. Cala cala. Ti piace come radio? Ma cos'è, il microfono da palmo stai usando? Cosa? Microfono da palmo? Sì, la static, sì. È un passaggio lungo, senza tenerti troppo attaccato alla bocca, però. Via, guarda, 1, 2, 3, prova, guarda come sta andando questo meraviglioso microfono. Guarda, se la tieni così è perfetta, eccellente, non toccare niente, a questa distanza, senza alzare troppo la voce, se no distruggi un pochettino, è bella, chiara e pulita, come piace a me. Cava, cava, ma non è forte, è vero. Mi ha fatto abbassare, adesso me l'ha fatta abbassare troppo. Ma vuoi abbassare troppo? È giusta così, se alzi troppo distruggi. Era, non dico incomprensibile, però un po' troppo forte. Così è chiara e pulita, va benissimo, come gli altri, senza essere troppo esagerato. La teniamo così, allora, dai. Se va bene così, la teniamo così. Già, è la tua voce naturale, raramente ti ho sentito così bene, perfetta. E anche il Galaxy ci esce bene, eh? No, questa è più naturale la voce, ti sento come che sei qua vicino a me, ti ripeto, non ti ho sentito così, raramente ti ho sentito così bene. Non so se dipende dalla radio o dal microfono, è perfetta. Adesso ti faccio dare dei picchi di radio, guarda, così va meglio. Ho abbassato, perché ha due potenze, ho abbassato la potenza, però dovrebbe avere più picchi di radio, dovrebbe essere più basso il segnale, ma con più picchi, vero? Confermi? Sì, quello sì, appena si è abbassato il segnale, però i picchi sono più visibili. Io me ne accorgo dagli strumenti. Già, infatti c'è il picchio di modulazione, come il merlo. Ehi, come il picchio. Io ho abbassato l'altro microfono adesso, non so se sia troppo alto, boh, cosa mi dite? No, lui c'è il picchio come il merlo. Ehi, puntine puntine. Allora, ehi, già stai andando bene già. Sei 9:20 con picchi positivi a 9:25. In linea di massima, in definitiva, e a un certo punto va meglio con la potenza bassa, perché non ti cambia il segnale, ma ti dà più picchi positivi. Yeah. Ma il merlo è sempre maschio, ricordatelo. Beh certo, non c'è la merla, no. Anche lo sparviero è sempre maschio. Il merlo maschio, cavolo, qua mi dà dei picchi allucinanti, che se sembra che sia in SSB. Ma già le vedo anch'io qua, che è così, capito? Vorrei mettere un tarler qua, per provare. Non te la trovo la bocca, già, se te la pugi troppo, no, perdi qualcosa. Ehi, lo so, però ho abituato all'altro microfono che me lo devo avvicinare, se no non si sente bene. Praticamente quello, capito? Ma scusa, quello capisci a me, dove l'hai comprato? C'aveva anche il danno, mandava a pigliare a tiro, era usuio, nuovo. Non ho capito, però, Claudio. Ho detto dove hai comprato la radio, so che c'era anche il Tamer più 3, nuovo, quindi di quella radio lì, con lo stesso attacco, bastava a prendertelo. Ma non lo so se lo sta vendendo, non penso che lo venda. Io, vabbè, se avessi fatto l'offerta con preso di Tamer, magari ti avrebbe dato anche il Tamer, scusa. Lui non me l'ha accennato che lo stava vendendo. Te l'ha accennato? No, non mi ha detto nulla, se no magari ci avrei fatto un pensiero. Qual è quello grigio o quello nero? No, il più 3B come quello, come questo cosa sto usando io adesso? Il nero sarebbe. Il nero, il più 3B è nero, il più 3 è normale, il più 6 è il più superside che è nero, con la cromatura nella capsula, è blu. Forse perché non stai usando il Galaxy? Ah, il Socomo ti uso il Galaxy, ma sempre il 3 più 3 sto usando me. KK. Sì, no, ma va benissimo. E che radio sto usando qua? Prima stavo usando il Midland, adesso sto usando il